filo teso, come l'articolazione, come nuvole nere, come gli stani amori, come un coriandolo, una bolla di sapone, come una fede al dito, o al vento un aquilone, come un sussurro, come la madre terra, come il pilastro di un ponte. La pace prima della guerra. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile. Come la voce che in un giorno senti mille volte, si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie, come la rugiada, come una stella cometa, come una mano tesa, come la voce d'un profeta, come un sorriso, come il pensiero razionale, come d'un edificio le fondamenta. E la battaglia contro il male. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile. La vita, ciò che ti hanno donato, come il silenzio, come un calzino bucato, come ogni cosa, sia piccolo sia grande, non darla per scontata, come te che sei importante. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile. Mi guardo dentro e tutto è fragile. Sono uguale a te, io sono fragile. Mi guardo intorno e tutto è fragile. Sento le tue grida, lo so sei fragile.